Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, torniamo dopo una settimana circa a parlare di defabbricazione con l'aiuto di Tullio Toglio, professore di tecnologia e sistemi di lavorazione al Politecnico di Milano e direttore dell'ITIA, Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Benvenuto, bentornato Toglio. Buonasera. Dunque, settimana scorsa abbiamo raccontato di questo primo impianto, primo in Europa, di defabbricazione che è stato realizzato a Milano da voi dell'ITIA. Stiamo parlando sostanzialmente di una fabbrica dove invece che costruire oggetti, gli oggetti vengono smontati praticamente. Addirittura prima ancora che smontati, riparati se possibile. Poi smontati in modo da poter utilizzare i singoli componenti che potrebbero avere ancora una vita utile. E se nessuna di queste prospettive è plausibile, allora parliamo a questo punto di smontarli per recuperare i materiali, parlando in questo caso di componenti meccatronici, anche materiali preziosi, terre rare e cose di questo genere. Accogliamo con grande piacere, insomma, questa notizia che il primo impianto di questo genere nasce a Milano, ma siamo di fronte a un possibile mercato, insomma, siamo di fronte a una delle grandi sfide del futuro. Allora vogliamo un po' capire anche l'entità di questo tema, sempre con l'aiuto di Toglio. Allora, già queste operazioni di smontaggio e recupero si fanno in giro per il mondo, ma dove? Diciamo che le operazioni sono fatte attualmente in gran parte in Asia perché il costo del manodopera è estremamente basso. Ora, siccome i prodotti a fine vita hanno delle condizioni, come dicevamo anche ieri, piuttosto differenti, molto variabili, è necessaria una capacità di giudizio che l'operatore umano normalmente ha, e questo quindi porta ad avere una grande intensità della manodopera e quindi favorisce i paesi con basso costo della manodopera, dove queste cose vengono fatte in condizioni spesso anche un po' disumane, per usare precarie, insomma, per farla con un impatto ambientale negativo e con anche un'efficienza di recupero molto bassa. D'accordo. La sfida, sì, ovviamente sarebbe quella di portare in Europa una parte almeno di questa attività. Per far questo è necessario però automatizzare. Ma che impatto economico ci può essere? Non so se ci può fare qualche esempio. L'impatto economico è potenzialmente enorme perché ogni prodotto in teoria può essere riprodotto, però diciamo, se vogliamo già parlare dell'impatto attuale, poi ovviamente il futuro ha degli spazi di incremento, manovra ancora enormi, sì. Enormi, ma parlando soltanto per esempio del settore automotive, nel 95 in Europa sono state riprodotte 10.000 unità di prodotti vari che sono all'interno dell'auto. Diciamo, nel 2000 eravamo già a 15 milioni, nel 2015 siamo a 30 milioni di unità. Questa è una stima fatta da APRA, che è l'Automotive Part Remanufacturers Association, che appunto raggruppa tutte le aziende che operano nel... In questo settore. E quindi insomma il trend direi, come si suol dire in questi casi, forse anche un po' impropriamente, ma esponenziale, no? E per quanto riguarda l'Italia, ecco, qual è il nostro posizionamento? Sembra buono, visto che siamo i primi in Europa a fare questo tipo di lavoro. Diciamo che la gara è un po' partita e quindi noi pensiamo che l'Italia possa giocare un ruolo molto rilevante, perché l'Italia è un paese che tra le sue... È una delle grandi economie manufatturiere, insomma. È una delle grandi economie Sappiamo fabbricare, dice, possiamo imparare anche a smontare, no? Assolutamente, non solo, possiamo inventare nuovi impianti per la deproduzione che non useremo soltanto noi in Italia, ma che venderemo in tutto il mondo. Mi sembra importante qui sottolineare che siccome queste, diciamo, queste operazioni, queste filiere funzionano bene se sono pensate bene dall'inizio, e quindi se si realizzano anche degli oggetti adatti, no, a subire questo destino, che non è solo lo smantellamento ma il riutilizzo eccetera eccetera, che questo investe molto anche le attività dei produttori e forse addirittura quell'industria di macchine e utensili che è così forte in Italia, che potrebbe cambiare per adattarsi a questi scenari. Ma i produttori di macchine e utensili, di beni strumentali, ovviamente possono diventare il centro della realizzazione di macchine per deprodurre, e quindi l'Italia, come dicevo, può diventare un esportatore di tecnologie in questa direzione. È chiaro che i produttori di beni finali che vengono realizzati con queste macchine sono un po' il centro del sistema, perché loro detengono tutta l'informazione sul prodotto, generalmente sono quelli che hanno il contatto col cliente finale, hanno la logistica o controllano la logistica e di conseguenza diciamo sono quelli che possono più facilmente implementare questo nuovo tipo di modello. Per esempio nell'ambito automotive, riproduzione di motori è già una pratica corrente. Va bene, grazie. Allora, professor Tolio, teneteci aggiornati su questa partita, sembra così rilevante. La ringrazio e buonasera a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.